di modo che la gente quando vede quell'immagine magari prenda coraggio e non si butti, capito? Tu dici che è una bella cosa, ma guarda una cosa, se uno si vuole avanzare non è, non sono sempre, cioè i casi non sono sempre uguali, i casi sono tanti, depressione, ansia e tutte queste cose, non è solo, oppure magari uno non riesce a uscire dalla droga, oppure magari, che cazzo ne so, magari non, tante cose sono già, tante cose, no? Non lo so, boh. Capito, è così. Quello che ho visto a Pontenuovo era allucinante, era metà furia metà dentro. Lo stavano tenendo per la gamba, questa signora, e era metà furia, si metteva a gridare, cazzo, si voleva buttare. Poi sono arrivati i vigili del fuoco, hanno tagliato quella rete e l'hanno fatto uscire da lì. Casino, già. Un casino, la vita è un casino. Adesso non lo sappiamo questo, queste persone cosa hanno dentro, solo loro lo sanno. Nessuno può capire, capito già? Nessuno. Se lo sta dicendo è diverso. Non è giusto, è giusto. Capito già. Quante cose sono? E magari hanno un accumulo di problemi, non riescono a uscirne. Si vedono persi e alla fine decidono di fare questi atti qua. Presidente del vigile del fuoco, quell'ex vigile del fuoco, e chi lo sapeva? L'hai visto? Cosa è successo? Si è guardato, si è impiccato, un casino. Oh, yeah, yeah. Per carità, non c'è più, non c'è più religione. C'è molta gente disperata, per la paura è quello. Io sono una cosa certa di quel vigile del fuoco, si giocava un pacco di soldi alla macchinetta, ma un pacco di soldi, ma sicuro l'abbia fatto anche per quello, non lo so. Era disperato, ma l'ha fatto per quello. Ecco, il vigile del fuoco ho assistito a una cosa io. Questa donna stava dicendo che era perché non andava d'accordo col figlio, non so che cosa, dal dottore, no? E si è girato questo tipo un me incazzato, ma perché parlate se non sapete le cose? Quello era un amico mio, cosa cazzo sta dicendo? Si è incazzato un me questo qua. Perché non si è impiccato stavolta? No, cosa mi ha sentito già? Cioè nel senso che non so, io non so per altre cose. Aspetta un attimo, sono qua, già, tiro l'ascia, sono qua, faccio danno, eh. Va bene, là. Tanto anche adesso mi riposo un po' là, è un po' stanchino il mio corpo. Cerco di chiuderlo perché sennò qua, io mi sei lanciato un coso qua, vediamo un po' sento, devi stare attento che cosa fai danno. Guarda, non ho una mossa sbagliata e si è fregato. Infatti. E gas vuoto. Fino adesso ci siamo riusciti a fare quello che devo fare. Adesso devo proseguire piano piano. Sempre piano piano. E se no fai danno. Prosegui, prosegui, è una cosa delicata. Ci sentiamo magari stasera, allora. Ciao, ciao. Dopo, già, ciao. Manino, ci sei? C'è nessuno? Sono le 10? Signore, Claudio Sparviero Sassari. Attenzione, Claudio Sparviero Sassari. Non c'è Claudio. Buonasera. Vabbè, grazie. Sono della grande città, dell'immensa città di Porto Torres, la più grande e la più forte. Carusia. Capitale della nostra Sardegna. Mi fate un bel raggio. Claudio? è tutto. Ti saluto Rita. Non so, mi cazzo di Carletto. di cielo c'è. Un lumaco di ventisello. Oh, che casino. Ah, dopo sono le 4. E ti trovo qua a casa, ti faccio un ultimo, ti voglio una cosa. Chi è? Non mi chiama. No, aspetta. Cosa? Ma adesso fammi vedere il cellulare, che non ti posso chiamare. Chi è che adesso non c'è il problema? Chiamalo quando vuoi. Ti ci aspetti, c'è la mamma mia, guarda. No. E ci metti il buon telefono, ok? Sta a fare le cose con calma, la mamma, ma giramento di balle a destra e a manca. Gana a zero, voglia a zero, voglia a zero. Dice che bisogna toglierne tutti, cioè muovere gli spinotti interni, quei contatti interni, perché molte volte si ossidano, era già capitato anche a lui, trovare a uno, ma sono d'accordo perché come schiaccio la potenza molte volte non me la dà, devo accendere e spegnere l'apparato un paio di volte. È pericoloso, Robert. È sempre un pericolo con la radio, io anche quando non ci sono, a volte rimangono accese tutto il giorno, guarda, tutto il giorno. E poi quando arrivo sollevo il volume e basta, non credo accese con le radio, purtroppo è così, a differenza di altre ICOM, altre radio, ma il 440, 140, 430, 70, quelle vanno sempre accese, possibilmente tenute accese. Migliorando, sto ancora gracchiando, sto? No, adesso no. E allora si sta stabilizzando, magari se c'è qualche componente, magari qualcosa di... Vabbè, quando c'è tempo, metto quel coperchio, gli do una bella soffiata con l'aria, magari è stata anche in polvere, non lo so, e muovo un pochettino tutti gli sfilotti che sono attaccati bene. Cos'è, 2060? Eia, perché? Ma parla strano, non sta pompando quello là. No, ma infatti c'è qualcosa che non va. Se avete usato il microfono normale... Aspetta, qua sono anche in basso, guarda se cambia qualcosa adesso, un pochettino l'ho sollevato, sono a uno adesso. Fa andare, recupero tutto e da 0 fino a 10 il Mickey Gain, muovilo, fallo andare. Se ne scalda, guarda un po', adesso è troppo alto. Non è troppo alto. Adesso? Sì, che il microfono. Solleva l'MC60 sotto, dove c'è in auto, fallo andare avanti e indietro, e attacca il processore. Ora. Che è successo? Carichi il microfono con il Mickey Gain che non sta andando. Staccalo, riattaccalo l'MC60. Staccalo dal connettore, riattaccalo. E muovi il Mickey Gain avanti e indietro, oppure mettetelo a 1,5, va bene? E c'è uno, guarda se sta scaricando ancora. 1, 2, 3, prova. Prova radio. C'è il radio, no? Mettilo a 2. E c'è a 2. 1, 2, 3, prova radio. Prova. No, sta scaricando. Attacca il processore, guarda sotto se è in posizione in. Ah, se c'è il processore attaccato. Adesso c'è il processore attaccato, va bene? Abbasso, mettilo a 1,5. Adesso lo metto a 1, guarda un po'. Adesso c'è lui, cioè, va bene. Si incollano i contatti, capito? Si incollano, devi muoverli. Anche il ricettore non sa farlo, non sa se sono delle scarica anche il ricettore. Però c'è qualcosa nel PL, controllo bene il PL. No, segnali forse però sento tipo fruscio, tipo fruscio. Io ti sento così a te. Prova a parlare. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 10, 20, 30, prova a vedere se senti bene a Luca. No, non c'è a posto qua. Qua ancora, 1, 2, 3, 4, 9, 30. 1, 2, 3, prova, qua si sente benissimo, adesso sembra tutto tornato a posto, la potenza va tirando, guarda, aspetta, lo posso levarmi un po', guarda, Luca, se male si aumenta. Ora. Ehi, siamo a te, Claudio. Lo rimettiamo come la prima, boh. Facciamo, aspetta una cosa, in FM. Io. Stai mettendo il portfeo. Sono in FM adesso. Siamo a posto. Anche qua va bene in FM. C'era qualche donna che stava parlando. E c'è il B2, aspetta, senti la M. Ci sono? Chi c'è? Eugenio. B2. Tu, ma devi dire. E quanti va pitteggiando? Me stai dicendo qua. Sì. Aspetta. Sono una quindicina. Io ne ho una ventina. 20 ne ho. Sei 9,55 il segnale tuo. Niente il tuo qua, quasi 60. E questo è Eugenio qua. B2 è quello di Paolo Torres. Che tu arrivi più forte di Antonio Loris e tre maci. Certo qua, a me stai dicendo, non ho capito. Ehi, ho detto che mi arrivi più forte di Antonello. Va bene, noi già siamo abbastanza vicini tutti e due. Infatti. Ma anche Antonello ce l'ho vicino, però tu mi arrivi più forte. Non lo so, adesso sembra tutto a posto, quei problemi che c'erano, quei specie di cose, probabilmente andiamo a pulire tutti questi contatti, troppo tempo ferma. Intanto muovi sotto il tattino del microfono di in out, quello muovo, perché è un passaggio di preamplificazione anche quello, stacca il processore sempre, muovi il Mickey Gain, capito, li muovo sempre. E poi rimetto come erano, perché altrimenti si forma quella pattina con la polvere, col coso, capito? E ti crea questi problemi così a gracchiare. Avanti tu. Sì, mi stavo... Aspetta, che casino. Luca, cosa l'ho lasciato fare? Qua apposta. No, non c'era più Luca 140. Lui prende tutto l'aria. Quanto volevi tu? 300. Yeah. È un buon prezzo. Ho visto la figura, sembra nuovo. Nuovo? Nuovissimo. Io ho venduto un nuovo, Era mio. Anch'io ho venduto il 440. Ma sarà più il 440? Negativo. Non te ancora neanche uno. Sì, no, ma è solo esclusivamente come tutto HF, solo bande amatoriali, c'è l'antenna amatoriale lì, dire buono, buono, ne avevo due, uno l'ho venduto, non facevo niente, doppi doppi. Come sta uscendo adesso qua? Ci sono con 140. Eia, io ecco, anche Natalino si sta vendendo tutto. Sì, vabbè, Natalino se lo vende fa un grande errore, perché non lo trova come lui. Io ce l'avevo doppio, nuovo, nuovo, nuovo. Cosa vuol dire nuovo? Nuovo, mai usato. Figurate che l'ha aperto Fabrizio. L'ha aperto Fabrizio, me l'hanno dato quando ho venduto l'8 50 e me l'hanno dato in per differenza, capito? Un amico gliel'ho fatto tranquillamente perché la radio era nuova nuova. Nuova. K. Luca, il 60 te l'ha venduto? Santa non ne aveva, Luca, che era il mio. Ah, io pensavo, se poi ho visto la fotografia c'era anche l'MC 60. No, no, no. 60 era il mio, l'avevo pensato io a Luca. A proposito, Lu, adesso c'è il baracchino, quasi quasi tiro il boxer, quello 25 ampere piccolo, con i due... con i due strumenti, quello che ti dicevo, e mi dai quello ad alimentazione a trasformatore a me, sempre nelle batterie che avventola a me, cazzo, mamma mia, sempre in funzione, cazzo di che. C'è questo grosso da 60 ampere, non ne ha neanche ventola, c'ha una bizza di coso e solo dissipatore dietro, però è sovradimensionato, quello ne dà anche 80 con l'alimentazione. Io infatti mi devo decidere a... io ne ho tre alimentatori, senza quelli della Chievo, ho tre alimentatori sui 25, 30, 35, senza quelli della Chievo, perché alimentano solo la Chievo, solo le radio della Chievo, capite? Mi devo decidere a farli fuori quelli e comprare un alimentatore da 50 ampere, 60 ampere, però non switching, non mi voglio switching, devo trovare per forza un alimentatore trasformatore come c'avevo prima e attacco tutte le altre radio, tutte le altre radio. Questo evento è una rottura di palle che non viene bene a dirlo, mi danno fastidio, boh. Ti immagini che quella del 1050 non le sento neanche le ventole, nulla, niente, queste sono sempre in funzione. Come accendi più radio iniziano a partire queste ventoline che hanno una rottura di balle. Adesso vanno bene per piccole cose, per cose grosse, soprattutto quando ne usi più di una, le radio è sempre meglio avere quelle, sono più, per usi gravosi vanno meglio quelle al trasformatore, meno problemi e tutto. In Italia ne ha uno, quello della, come si chiama? Della Vettati, quello da 40 ampere, quello è un bel trasformatore, un bel alimentatore. No, ma ce l'ha Luca, quello c'è Luca è il mio, gli ho lavorato quando ci ha comprato il coso, il 140 che non ne aveva, capito? Ce n'era uno piccolo. Adesso non c'è più 140, Luca c'ha il 25 ampere della ZG, quello trasformatore, che va molto bene, capito? Siccome io ho comprato un boxer nuovo, quello da 25 ampere lo stesso, piccolo, numerelle, prende meno spazio, quindi lo fa anche bene, nuovo nuovo, quello con due strumenti, che ha l'alimentazione da dietro addirittura, quindi non c'è manco fili in mezzo alle balle, niente, capito? Adesso vediamo, se lo fa quello lì, se le dà meno spazio, mi faccio dare quello da alla trasformatore, che è meno più silenzioso, per me posso attaccare più radio, perché quello più radio li attacchi e più si attacca la ventola, più casino fa questa ventola. Gira, che è una cosa allucinante. È nuovo, come ce l'avevo un paio di mesi, c'è ancora la scatola. Sì. No, io ho quello, io ho fatto un affare, ho quello della CEP, una bista, pesa da 15 kg, ma quello non bisogna attaccare, Luca, neanche lo muove, è proprio al minimo, la lancetta della pelle, manco sui muovi, c'è un male. Ci attacco tutte le apparecchie a 12 volte che ho, c'è una poca di roba attaccata di lì, manco lo muove, cioè non, niente, cioè i dissipatori è come che non ci siano. Cosa volevo dire? Natale non c'è una cosa che forse mi interessava, però questo mi pare un po' troppo. Quanto si paga la colonnina della linea? La colonnina della 440? 50 euro, 60 euro. Infatti sta parlando così, lui ha detto 100 euro, mi pare troppo una tariffa. Ho visto quelle della Iesu che hanno il filtro e tutto quanto, stanno vendendo 90 euro come nuovo su internet. Io l'ho regalata a Giancarlo Silvestro, la colonnina del 440. Pensavo che ci avevo anche posto a metterla con una gerbita. Ho detto, costa 110 euro, 115 euro nuova. Nuova, proprio nuova, nuova, 115 euro costa. Qualcuno è 440 e poi non la fanno più, fanno quella nera adesso, quella del 450, quella grigia, quello vecchio, 50, 60 euro non di più. Infatti penso che presenteremo quella, no, io mi manca quella lì, c'è una più o meno della stessa altezza della Sony, una colonnina piccolina di un impianto di quelli surround, di coso della Sony, ci sta bene lo stesso perché è con la gomma piuma nera, sto elegante, però avere l'originale è più carino, dai. Vabbè, io non c'ho posto a mettere colonnina, non c'ho strumenti, non c'ho niente, io c'ho un impianto fatto ad hoc questa volta. Ho speso 500 euro di cavi, ho tutte le discese nuove di H510, con PL tutti sono tutti nuovi, ho fatto un mega impianto e ho, ti immaginate con 600-700 watt, ho uno a uno di stazionario, proprio uno, rapporto uno, capito? Con lineare attaccato e un po' di watt. Con, senza amplificatore lo stesso, manco si muove l'arco. E lì manco si muove, proprio si muove appena. Ho fatto un pianto tutto nuovo. Ascolta, vabbè, adesso che sono poi a sentire a te ci passa un altro anno. Non mi gira il rotore quello della stella, quello piccolino che si usava per le parabole, già lo conosci tu. Montato la verifica, ma veramente quella per le VHF, tu non è che ce l'avevo un rotolino così piccolo, quello a tre fili. Allora, anche io, allora, ti spiego, a me mi si era crepato, nel senso, come si chiama, la ruggine, l'ho aperto e non ci puoi fare niente perché si arrugginisce l'indotto, c'è tutto a posto, però l'indotto si rovina. L'attorino, sono molto amici, e mi ha detto, te prenditi questo, me l'ha regalato un altro che aveva riparato in garanzia lui. E, però anche questo c'ha dei problemini, perché molte volte si blocca anche se integro il coso, il motore, probabilmente c'è qualcosa di elettronico sulla scheda elettronica, lo devi fare un paio di volte per camminare. Si riesce a cavare il piede appello, però non è costante, nel senso il movimento, cioè non è lineare come quello che avevo prima. Tieni presente che il nuovo costa 70 euro, ma l'aveva dato Tonino, ma neanche qualcuno di quelli lì. Ma non so, forse l'aveva, ma tu già smontato il tuo? 105 minuti a smontare, sono solito anche stamattina. L'ho smontato, l'ho battuto, sì, sicuramente è pieno di roba dentro, non lo so, perché a me me l'aveva regalato Marco KB. E ce l'aveva sulla direttiva lui, ma l'ho provato giù, l'ho tutto pulito eccetera, ma quando ho aperto sotto è stato sceso un mare di roba bianca, allora l'ho pulito, l'ho fatto girare e girato, l'ho montato la direttiva e girato per qualche giorno, adesso non c'è Cristo che farlo girare, stamattina sono andato su, l'ho smontato, l'ho tutto spruzzato, l'ho sfruttato per contatti, l'ho tutto pulito, l'ugina non scende, non scende niente. L'ho collegato di nuovo, sono andato a farci girare il control box e sotto non gira, non c'è niente da fare, non gira, e ce n'è altro meno di quelli. Sì, a voglia, 3 o 4, ma il control box ne ho due nuovi, non ho visto il problema. Il problema è lassù, perché io l'ho scomposto tutto quanto, siccome ne avevo già sistemato uno, però grosso, per una parabola grande, però quello era a coso cardanico, come si chiama, con la cardanica, era tutto un altro disco, cioè potevi lavorarci tutto in ghisa, una bestia di cosa, vabbè, dovevo inventare una cosa grossa. E questo qua l'ho aperto, tutto scomposto, ci sono delle specie di cuscinetti a sfera, sono delle, no cuscinetti a sfera, scusa, ci sono solo le sfere, su un piattello, si arrugginiscono queste qua, si blocca lì, poi da lì parte la ruggine e l'indotto si arrugginisce, si allarga per appena non ce la fa più a muovere. Io l'ho tutto staccato, scomposto, guarda, una ferratura, la bilancia, della giornata, perché non c'è niente da fare, è fatta l'economia. L'unica cosa di lì, comprando un nuovo, adesso lo apro. apro, lo pulisco bene, gli do una passata di quel grasso di vaselina, quello che uso per la roba nautica, dove ci sono tutte le movimenti, le parti del movimento, perché come piove l'acqua ci cade dentro, ed è logico, piano piano si bagna, rimane messo nell'acqua, e si allarga, e si gonfia, e si arrugginisce tutto, e il materiale scade, oh, vabbè, per quello che costa, però l'ho utilizzato per 2 anni e andava una meraviglia. E allora faccio prima comprarlo, €50, se non lascio almeno 50 euro, poi si dice che ce l'ha, perché così gli attacchi sono uguali, capito, e c'ha 3 fili, no? Uno centrale, c'è la guardia centrale, e poi ci sono gli altri 2 laterali, capito? C'ha i numeri, seguo i numeri, faccio prima, no, me lo compro nuovo. No, adesso ti ci sono da pensare, non c'è problema. Ma quello che c'è io, il control box è veramente bello, è fatto bene, non è una cagata, perché me ne aveva regalato un altro, quello che mi conosco, quello radioamatore, mi ha detto mi viene un altro, però questo era molto vecchio, della stessa ditta, però ci avrà avuto 40 anni, non lo so, però neanche vicino, poi l'ho visto anche su delle riviste, per quel prezzo lì è più bello che c'è, perché il control box è proprio perfetto, piano piano, anche di un paio di gradi, lo spusti ed è perfetto, da quel punto di vista è ottimo. Il problema è molto economico, lì bisogna fargli o qualche involucro, cioè tipo come ho fatto per le parabole, metterci, rivestirlo con tipo una camera d'aria a volta, in modo che, come si chiamano, le parti, in certe parti dove non si muove sia protetto. Ok, realizzato questo. No, quanto fa che io ho quello nero piatto, vai, che c'è la monopolona e basta, e quello lì su, ho capito. Un attimino ti faccio entrare subito a Becchia. Dimmi una cosa, Robè, ma ti dà solo il motore, compreso anche il control box? Oh, no, tutto completo ti dà, completo del control box. Infatti per quello ne ho 2 di control box. C'ho 2 motori, vabbè, uno ce l'ho buttato via, tanto non ne faccio l'altro, mi è rimasto l'altro il control box, non si sa mai, ma non mi si da piazzarla perché è un po' problematico dove l'ho messo io, è un po' fastidioso, bisogna essere in 2, detto, ma non lo prendo, non posso sempre andare a comprare, no? Giù tempo di nulla, quando vado a comprarlo me lo metto nuovo, direttamente non fa perdere tempo. Per 11 vado a Torino. Non diceva la prima, ma quanto non voglio, così è uguale a quello che ho, vabbè, avanti Becchia. Positivo, buonasera, ciao Claudio, ciao Roberto, ben ascoltato dopo la maniera, Massimiliano da questo. Ciao Massimiliano, ben sentito da tanto tempo. Ciao Massimiliano, buonasera. Buonasera a tutti e due, vi stavo ascoltando un po'. Perché stai innescando? Abbassa leggermente, Michi, tagliate le linee a 3, fate buon volante. No, ho spostato un pochino il microfono forse, guarda per vedere qua. Non sento sempre un innesco sotto. Guarda per vedere adesso. Io lo sento sempre, tu lo senti Roberto. Sì, leggero, leggero. Non parlare, manda solo portante, Massimiliano. Aspetta, ho allontanato il microfono dalla radio, guarda per vedere se lo fa ancora. Siamo alla ventola però a me. Cosa c'è, ventola? Nessuno ha detto, la alimentatore che sarà aumentata dalla radio. Ha un rumore di motore elettrico, sa che così. Motore elettrico addirittura? Sicuramente sarà qualche motore elettrico, boh. E poi la matrice, no? La matrice vitrina. Non so, io non sento niente ancora, la verità, Guarda, beh, se lo fa ancora. E ancora. Stamattina la faceva, là. No, non è attivo. Sì, ma quando parli la sovramuto non c'è problema. Qual è sempre quella radio? Sempre quella radio, non ho toccato niente, ho solo acceso e basta. Come accesa? La spegni quando vai a mangiare? Allora, ho già volta, accesa la lascio. Accesa devi lasciare, mamma mia, che mania va a vedere che vai a radio. Allora, quelle radio di autonomia hanno... Quello lo puoi lasciare anche 6-7 giorni accesa, capito? Non c'è problema. E vabbè, io la spiego lo stesso, non ero a casa, capito, lo giro da mia madre, quindi c'ho il vizio di spegnere. Massimiliano. Cos'è Roberto? Forse da Massimiliano, ma lui, Massimiliano, è dentro l'ottava, abiti tu? E io. Dietro, come si chiama, dietro l'edilizia sana, dietro di lì, in direzione di quella. Edilizia sana? No, non abito in quella zona, abito molto prima. dietro, esattamente dietro in quella direzione, però all'interno di linea a un chilometro. Non so chi sia, non so di chi stai parlando. Tu stai dicendo dietro la NP, giusto? Che è la NP? NP, quello che c'è, diciamo, un pochino più avanti del distributore di Ottava, lì a sinistra. Allora tu fai conto, salendo nella quarta mona, dagli Ado, la strada degli Ado, arriva la 131, vai sempre dritto, anziché sia la 131 vai dritto, fiancheggi e cosa c'è? Quello che poi porta ai campi di calcio dell'Ottava, vai sempre dritto dritto in fondo, di lì e poi giri a destra. Sono passato l'altro giorno e ho visto un'antenna con un palo bello grosso in acciaio inossidabile, non so chi sia, non l'avevo mai vista. Che io sappia lì c'era coso. Lì in zona di Ottava c'è Gigi Vulcano e Coglio, l'antenna di Maestrale, che io sappia, pure che c'è qualche di un altro nuovo non lo so. No, no, quello che conosco tutti, non c'entra niente, l'ha abitato. Stiamo parlando, fiancheggiando il muro, con la travetta, che di, come si chiama? Con la travetta, come esci dal bivio, c'è lo spazio di traffico, vai dritto dritto, salendo la taglia, diciamo, la travetta, ma vai sempre dritto dritto, in fondo per 300-400 metri e poi giri a destra, e lì c'è un'antenna, un avanto, ho visto con un palo grosso grosso e un acciaio inossidabile. Cazzo, ancora viva quell'antenna, cioè allucinante, allucinante. Lo sai di chi è quell'antenna? L'ho montata io. E di che è qua? Giovanni Camposanto. Cazzo, e poi lo vedo... Ma è attaccata alla casa, mia, non è attaccata alla casa. Esatto, è attaccata alla casa. Palo in acciaio, sì. Un palo in AISI, in acciaio puro, puro. Proprio AISI, 100%, da 2 pollici. L'ho visto, ma ha colpito per toccata roba di ballo, ha colpito lucido, lucido, e ancora, ecco, questo è il palo di acciaio inox, non è il palo zingato come tutti gli altri. Io dicevo che AISI puro, tu sai cosa vuol dire, no? AISI puro, da 2 pollici col trompettino da 1,5 pollici, che entra dentro l'antenna, salvato proprio apposta da un salvatore dentro l'Enic, si è fatto fare apposta, ancora lì è col palo, non c'è manco radio, figurati, una con l'antenna col palo. Sì, sì, rimane dietro l'MP. Hai visto dove c'è quello che vende la macchina, Stefano? Tu entri lì, costeggi i campi, dietro i campi, dove c'è quella tradina e costeggi i campi, lì c'è l'antenna. E lì proprio, hai detto bene. Sì, guarda, se ci metto a io di antenna, allora io c'ho. Ti parlo del... Guarda, se non vado errando, se non vado proprio errando, errando nel 1986. Dura, sì. Ce la stai usando qua, 140? Via. Certo. Cosa? Claudio, nome mille cazzate. Non dico cazzate? Allora chi è? Io sono qui lì a Betta Giovanni, l'unico palo che c'era, cioè non si va, dobbiamo fatto io le cose Giovanni. Poi se ne era tolto, non lo so. Ma non è l'86 però, eh. Buonasera a tutti, non è l'86 Claudio. Che è venuto molto dopo a abitare lì, ha comprato il terreno lì, la casa Giovanni. Poi quando mi ho fatto quell'antenna io, la casa non era manco finita, non c'era né porta dentro, dovevano le tende, il piazzale non era finito, mi avevano attaccato appena la luce, perché io nel 91 ero a Cagliari, nel 91 ero a Cagliari, alla Saras, nel, no, 86 forse hai ragione. Nell'89-90 può essere, perché ero all'Enica e nel 91 forse andato a Cagliari, può essere 89-90, però la casa non era ancora finita. Se mi dici 90, nel 90-91 ci posso già credere, dai, perché lo so, l'ha presa dopo lì, e poi è nato dopo lì, Claudio, dopo l'86 è nato lì la cosa, che era tutto campagna, capito? C'era solo Fancello lì, c'era Fancello e poi hanno comprato lui e l'altro che aveva l'antenna, attenzione, ce n'era un altro che mi pare che l'ha puntata l'antenna, non so se ne era tolta, se c'era ancora, a cassetta, che sono confinanti, capito? Hanno costruito lo stesso periodo con la cassetta. Io non ci avete anche Carregalato. Appena più sopra, Gavino è stato appena più in quei presi lì sta Gavino. E lo sto dicendo perché quando io ho montato l'antenna a Giovanni con Michele, no? così a Gavino, a Gavino Garrigavato, perché anche lui voleva lasciare il baracchino in mano, il camion, e quindi voleva qualcosa anche a casa sua. Adesso non ricordo, ho detto 86 perché io nel 86 ero per 8 mesi, però se faccio i calcoli sto sbagliando io, perché è così, io nel 91, sono andato a lavorare a Cagliari della Sara, che mi avevano trasferito da, Porto Torres, e quindi mi pare proprio che l'abbiamo montata prima di partire io, in quel periodo, quindi sarà 90-91, sì, se ho sbagliato. Ma è un tubo quello eccezionale, figurati che abbiamo portato intero quell'articolato, l'ha portato lui quell'articolato intero, capito? Perché ora la guidava e quindi l'ha portato lui quell'articolato intero, Massimiliano. Ma se vede quel tubo è in AISI, scritto a 40, da 2 pollici, siccome l'attacco della Mantova è da, un pollice e mezzo, da un saldatore molto bravo, che c'era lì dentro, vedi, che ci ha fatto saldare un 50 cm, 30 cm di tubo proprio innestato dentro quello a 2 pollici, messo dentro, e poi fatto tutto il cordone sempre in acciaio inossidabile. Ha fatto un bel lavoro allora, ciao Gigi, ben ascoltato, buonasera. Ciao, comunque l'aveva tolta l'antenna Giovanni, perché sino a tempo fa ne abbiamo parlato e mi ha detto che ci aveva ferma una radio, che addirittura funziona a 220, ma si doveva sempre avvicinare per provarla qua se funzionava, perché l'antenna non ce l'aveva, so che ci aveva il faro ma non ci aveva l'antenna, ma che adesso ci abbia messo l'antenna non lo so, non l'ho vista, allora l'ho messa in questi giorni, capito Cla? Chi era l'altro? Non l'ho capito che stava detto dell'antenna, l'ha messa in questi giorni perché io ci passo spesso lì e non l'ho vista, ho visto che c'era il faro, allora ho deciso di mettersi nuovamente l'antenna. Io con Giovanni mi sono visto anche stamattina, sarà anche un mesetto fa e me l'ha detto, dice ma vicino ce lo proviamo se si è rovinato, c'è quell'apparato, c'è un apparato da base, lui da base fissa, e lo voleva provare da me se funzionava ancora. Guarda Roberto Quadratto, quella radio gliel'ho data io in quegli anni, è un summer camp, dovrebbe essere un summer camp, se non vado male, 40 canali più 40 canali, capito, con le bande laterali. Una bella bestiolina, tipo questo che ho io qua con il DAC, una cosa del genere. Avevo anche il microfono a tavolo, tutto, avevo fatto una bella tatticina, Giovanni. Non so, io ho detto l'antenna, perché lui mi ha detto che c'è un palo, una cena oscillabile, l'unico che c'è il palo, una cena oscillabile, lui a tavolo è Giovanni, non ce ne sono altri. Perché ce l'aveva sia lui che Michele, anzi Michele ce l'ha ancora, a casa sua non l'ho mai piazzato. L'aveva piazzato quando era in via De Carolis, dopo quando ha cambiato casa, che è andato in via Bardini, l'ha attaccato, c'era in garage il tubo. Quindi l'antenna io non lo so se l'ha montata, però il palo è quello di Giovanni, abita Giovanni, avanti Roberto. Sì, ciao Gigi, ben sentito dopo tanto. Se corrispondono i luoghi, l'antenna c'è adesso, perché l'ho vista domenica scorsa io, sono passato di lì per fare cosa e l'ho notata proprio, infatti mi ha colpito quel palo in acciaio inox, bello lucido, da lontano, saranno dalla terra, saranno 50 metri, mi ha colpito perché era lucido e poi c'era questa antenna montata sotto, infatti ho chiesto a Massimiliano se lui abitava in quelle zone lì, mi ha detto di no, non è la sua, Claudio mi sta dicendo che si chiama così, io non lo conosco, non so chi sia. E in passato già era conosciuto, già Giovanni Capostrato siciliano, già era conosciuto, no, a te perché, Claudia, perché in quel periodo lì con Michele non si conoscevano ancora Giovanni, capito? Si sono conosciuti nel 90, 90, adesso si sono conosciuti quando Michele è entrato a lavorare con Dazzara, perché prima, me lo ricordo questo particolare, prima è entrato Giovanni, che era con Siluria. Dopo un bel po' è entrato Michele, ma Michele è entrato negli anni 90, 91, quel periodo lì è entrato con Dazzara, hai capito? Mi figurati a me, ho portato io a Michele la Giovanni. io, l'ho portato io, ho chiamato Botteo, poi Giovanni abitava attaccato a mamma, a poco poi si è stata la consolata, anzi a nonna, perché mamma abita in via Cavour. Quindi io ho già detto da tanto, io conosco Giovanni che ci avevo, mi pare, 20 anni, ne ho 53, forse neanche ci davvero 20 anni, capito? Io c'ero cioè, manco macchina quando andavo a casa sua da Sassari a Porto a lì a Ottava, c'avevo la moto, quindi non manco macchina. E ho visto la figlia Mirilia, l'ho vista praticamente nascere, la prendevo in braccio e lui l'ha vista nascere Ilaria, capito? Ilaria era sempre lì. Sempre lì mia figlia, tutta piccola, c'era un anno, ne ha 25, infatti un po', ci conosciamo una vita, una vita, e io sempre lì, e quindi la mia baracchino è nata da, sempre da me. E Giovanni a Michele l'ho accompagnato io perché una domenica infatti l'ho invitato lì e Michele era ancora, non era ancora entrato e da lì è nato tutto, capito? Venuto con me una domenica, siamo andati a pranzo, pure a pranzo, abbiamo fatto pranzo, cena e notte pure. Era un grande divertimento a Giovanni, mi ricordo, era una cosa allucinante. E lì con Michele ci siamo conosciuti, eccetera, eccetera. Ha fatto entrare Giovanni a Rasare. Positivo. Comunque, no, sì, quando era? Il luglio, sì. Il giorno che siamo andati quel pranzo. L'ho trovato la mattina. E dopo tanti anni è venuta la figlia di quella che c'è in Sicilia, e con tutti i nipoti, e l'aveva in macchina, dai, l'ho trovata col suo tuo padre, poi ci troviamo noi, è venuto a prendere pace, pasticcini, e niente, ho conosciuto la figlia, la grande, la prima figlia, dai, l'ho conosciuta, questo è luglio, dai, 22, mi ricordo che il giorno 19 forse, non mi ricordo che giorno era. E è venuta in ferie con anche la nipote di 13 anni, così, bambini, quell'età lì 10, è venuta a trovarla dalla Sicilia dopo tanti anni. Là. Io sono stato via Giovanni da aprile, proprio dal giorno di Pasqua, e sono sceso da Mauro, anche mi ha telefonato Mauro, a farci gli auguri, siamo andati da Gigi, con Siccano, e c'era lui. Ci abbiamo fatto gli auguri, ci è venuta una cosa e niente. E infatti mi ha detto proprio di quella radio, adesso mi sto ricordando. Mi ha detto, minchia, quella radio devo farla funzionare. Ho detto, quando voi Giovanni, non ci sono problemi. Me lo dici e la facciamo funzionare, che ce l'ha sempre. Avanti Massimiliano. Dove è andato Massimiliano? È stata Roberto. Però un annetto fa, Giovanni, una certa delle sue, forse una fagliette di quelle grandi sempre che ci hanno dato i canali, tipo un frutto, un capitolo di quelli lì, era un insecchio, adesso non lo so, una fagliette, se non mi ricordo, mi ha dato uno a farlo vedere da come si chiama, da Roberto, ma un annetto fa. La verità l'ha dato a Tommaso Civa, che allora Tommaso Civa andava lì ritirava dei rimorchi a costa di Dazzara, caricava dentro lì, e gli aveva data a Tommaso a portarla da Roma, un'altra radione, e gli aveva messo a posto. Però c'è quella famosa che doveva sempre portare, un giorno, un sabato, una cosa non l'ho mai portata, quella famosa che dici tu. Quella l'ho lavorata io, ti ho detto. Io mi ricordo che era un sommer campo o qualcosa del genere. Quella da di vecchie basi, come quelle che ci ho io così, tipo quella che hai fatto con le tue tu con Massimiliano. Quindi non so, sto ricordando male, ma mi pare avanti, Robè. Per quella direzione, vedi? Io? Sì, tu parlo. Sicuramente non dico quello che è successo, mi ha detto non riusciva a sentirmi, perché io sono passato davanti a Gigino, ho detto cacchio, mi deve sentire, invece chiamavo e non mi sentiva, mi ha sentito solo l'ultimo pezzo quando ero vicino a casa tua, tu guardate chissà quanto c'erano le stazionarie. Dottore, ho detto, siccome avevamo fatto così all'interno del passaruoto, non vuole che ci fosse della ruggine dove fa la massa l'antenna. Vabbè, è un punto molto delicato quello sul parafango, ho capito. Quindi devi vedere un po', perché l'antenna è buona, l'antenna è ottima, quella ce l'ho anche io, infatti c'è la base magnetica tua, quando ti serve non ci sono problemi, sul 4 che ce l'ho io, la uso sulla base magnetica, io a volte la metto sulla furgonetta, non entro mai, la metto sulla furgonetta per ascoltare, così quando sto viaggiando per farmi compagnia, mi metto l'HB23, neanche la LAN 48, figurati tu, HB23, con microfono normale, dietro per ascoltare, ma c'è una bellissima ricezione, l'antenna è uguale a quella che ho io, che praticamente è quella massima che mi avevi dato tu, che gli ho tagliato il puntale di sopra, l'ho fatta la stessa altezza di quella dell'altra che ci avevo, e l'ho messo il tappino, non te l'hai visto. C'è una ricezione, una trasmissione allucinante con l'antenna, quindi secondo me Robè c'è problemi nell'attacco. Sì, infatti, ti ricordi io una volta che avevo le saline a Sentino, che dice mi arrivavo a Santiago Nove, mi dicevi 9-9-10, a casa tua, anche Antonello, mi ascoltavano tutti, sentivo anche Antonio Bombolo, figurati che lui non è forte uscendo, sentivo tutti, mi dicevo una bomba, mi avete risposto, per cui mi avete anche ascoltato, poi l'altro giorno, mi sono successo, adesso quando c'ho tempo ne svolto la base, la pulisco bene, tutta quanta la ingrasso dove poggia, la lubrifico in modo che non prenda neanche corrosione più, facciamo le prove, sennò per avere capito questo, perché l'apparato è nuovo, una LAN 48 Plus nuovissima, ma l'hanno dato, ma nuovo, e funzionava anche l'altro giorno, l'antenna l'hai vista pure tu, era nuova, dove può essere la base, quella filettata sulla carrozzeria, e basta. Io c'è massa, Robè, quell'antenna, in quell'antenna tu non c'è massa, perché l'altro giorno quando eri vicino ai carabinieri che Claudio ti ha detto da lì dovresti arrivare a fondo scala, stavo arrivando a 7-8 mi sembra, ma eri Santiago 2, ma in radio non ti sentivo niente, quindi c'è qualche problema di massa. E più grande è quello lì, penso, infatti abbiamo già fatto l'attacco il coso, no? Smetto, mi guardo le stazionarie prima di tutto e poi verifichiamo la massa. E a positivo. Ascolta Robè, invece con questa radio come ti arrivo io lì da te? Sono 20 watt di portante bianca, 50 mulatti. Sei quasi 9,20 quasi. 9,15 picchi 9,20. Va bene, va, ok. Ma Gigi, riprendi. È positivo, Robè, dammi un controllo a me con 4 watt o 5 watt, anzi, forse 5 watt questa radio. Guarda a vedere il segnale con 5 watt. 5 watt modulati di portante bianca e 5 watt modulati, sempre liso. Guardiamo un controllino a vedere. Picchi di 9,10 arrivi, no, no, buono anche il tuo segnale, butti una rada, niente da dire. Tutti e due state andando, lui arriva un po' più forte di te. Ma io ho detto che ho un baracchino che non va più di 5 watt e Claudio è sempre quell'ara 88S, quel 34S, cos'è? Quello che mi hai dato, quello tuo. Ah, la radio micidiale, sì, microfono normale, buono, ah, la radio veramente, l'avevo provato anche io, solo che non l'avevo attaccato, messo a parte, che non ho un sacco, non c'ho posto, quindi, ma va molto bene quella radio, anche qua, quasi 9,10, fisso, mentre, Massimiliano è più alto di te, ma c'ha più watt, ed è uguale, stesso segnale che ti ha dato Roberto, 9 più 20 pieno, quindi sì, sta arrivando lo stesso segnale di quando usi la 48 con un po' di watt, non so che potenza usi, ma più o meno si dia, quindi solo in compenso c'è una radio fortissima, bella, pulita, ma molto bene, se ti abitui a parlare con quello molto bene. E qui con una cosa, mi chiedi a metà, non è aperto, mi aspetta un attimino. Allora, così l'ho aperto di più, tutto aperto, mi chiedi là. Non è radio. ma io non lo sento bene così tutto aperto, forse la vicinanza, però così tende quasi a trappare. Aspetta una ciglia, guarda dove c'hai il trattino NB, ok? E se non c'hai scariche, disinseriscilo, perché anche io con voi devo fare la stessa cosa, abituati. Prova a disinserire dove c'è il trattino NB in quel pulsantino, disinseriscilo e vedi che lo senti meglio. Prova a vedere lui. Guarda a vedere, ma il problema sai cos'è qua? Che io gliel'ho aperto di radio e sicuramente mettendolo al massimo è troppo, vorrebbe regolato al massimo, allora è fatto tornare la radio perfetta al massimo così, capito? Di solito io mi adopero così, la sto adoperando così e niente, ti dava fastidio prima, come la sentivi male prima, oh Massimiliano? Sì, sto andando quasi a trappare, invece adesso ho disinserito questo NB, siccome l'NB lo posso anche regolare, l'ho regolato e adesso sì, perfetto. Adesso in questo passaggio, guarda questo passaggio a vedere, in questo passaggio qua, controlla questo. Perfetto, lui io posso regolare un po' più cose, là. Perfettamente bene ti sento, non stai più strappando. La passiamo nel video. Ascolta una cosa, in FM l'hai provata questa radio? Sì, funziona bene. Ricordati Massimiliano, per quelli che hai vicino e per quando usano i baracchini con l'eco, l'NB tiene lo disinserito, capito? Perché l'NB praticamente è un noise blanker, praticamente stringe la modulazione, stringendo la modulazione, quando uno è troppo amplificato te lo manda in distorsione, capito? Positivo, ok. Comunque io l'NB lo posso sia regolare, una volta che lo disinserisco, ce l'ho anche dove lì c'è lo squelch, cioè l'NB lo posso regolare ancora. Esatto, come vuoi dire tu in base alla tonalità del corrispondente, sì, come 140, non c'è problema. Ci ha detto che quella radio è perfetta, c'ha tutto ciò che serve. Ha poche memorie, le stesse memorie del 430, 8 memorie, mentre il 140 ne ha 31 di memorie, capito? Però anche quello è 8 memorie come il 430, perché sono usciti assieme, il 430 e quella che c'è tu sono usciti assieme, uguali, spiccicate. Ma mi sto, come si dice, abituando, capito? Non c'ha niente a che vedere con i baracchini, è tutto un'altra cosa, tutta un'altra buba. Cioè puoi regolare tantissime cose, cioè fa molte più cose, là. Anche quando stai ricevendo puoi regolarti chi ti sta modulando, è un'altra buba. Lo so, mi fa piacere che stai apprezzando queste cose, perché quando vuoi fare le chiacchiere come cristiani, ricevere bene, non avere problemi di QRM, di quello e di quell'altro, si usano queste radio, no? Guarda, io c'ho il presidente che è piccolo, ma è simile al 140, ma c'ha tante di quelle cose con la radio allucinante, veramente. C'ha l'NB lo stesso, c'ha la portante manuale, c'ha un sacco di cose, veramente bella. Poi l'abbinamento qui al microfonico è favoloso. C'ha watt, quanti ne vuoi, guarda adesso? Da 0 a 600 watt. Non c'è problema, avanti Robè. Ah, è caro. Vabbè, ciao di bugnetta. Allora, buonasera a tutti. Ma se mi ha trovato se avete di capo, se siete di capo solo. No, se viene tuo cognato, al limite il fotometro così la misura con la toppa. Ma tuo metro più o meno, non lo sai più o meno quanto è quello lì. Io mi ricordo ieri facendo qualche passo, quello più corto era intorno ai 24-25 metri, io mi ricordo una cosa del genere. Quello che ho preso io mi sembra che sia 26 o 28. E vabbè, al limite prendi un coso, un metro si misura, non è problema per quello, là. Comunque non lo dare, che quello lì lo collega a vino per farsi la calata lì a coso. Nel laboratorio così tu quella quella che non più, quella piccola piccola, e ci metto quella grande che gli ho dato io, e ci metto quella calata di tavolino, capito? Poi se per caso non arriva dentro il laboratorio, fa un marinotto, col marinotto dentro il laboratorio ci arriva benissimo con l'altro spezzone che gli dai. Vabbè, non c'è problema per quello. Andate, Claudio, comunque Giovanni ha partorito, è a posto, si sta sgonfiando adesso. Ha partorito ieri, proprio perché non sono andato a baracchino, c'ho un medico qua a casa, non voglio che tocchi nulla, capito? Già me l'hai detto, già me l'hai detto. Io ho cambiato radio, sto andando col presidente dell'MC80, poi Robè mi dici cosa ti sembra questa radio. Questo è un abbinamento, la KR2510 del presidente con l'MC80. Ma hai già detto, Antonio, me l'hai già detto, ti ho fatto anche gli auguri, tutto. Vabbè, ti stai rincoglionendo. Cerca di rincoglionirti poco, e lunedì le telefonie a signor Giovanna, invece questi componenti devono arrivare dall'America. Avanti, Robè, come va questa modulazione? Sì, già va bene, niente da dire. L'altra è diversa, diciamo, siamo abituati all'altra, comunque va bene anche questa, niente da dire. Certo, l'abbiamo sentito anche a te dopo tanto, anzi, ti ho sentito l'altro giorno di sfuggita. Vabbè, ho caduto la Siria, eh. Fa della Gadria. Fate fa della Gadria. Comunque va bene, no, Robè? Già va bene questa, poi c'è i bippi. Sto ricordando a Mirko, là, aspetta, lo ho già detto troppo, ora devo stare sempre appresso perché è qua a casa, è un casino, sto pegliando per fare in camera, sì. Sì, no, va benissimo, là, cosa ha messo? Ci ha messo l'MC80. L'MC80, sì, col presidente, mi ha fatto un rattattone lungo, sembra tutto il cavo unico, però in mezzo c'era l'attrattore, non si vede, passa dietro Massimiliano Archimede, infatti lo chiamiamo Archimede per quello, e alimentazione dalla radio, tutto. Come che stai usando normale l'MC80 sul K, capito? Va molto bene, spinge molto bene, mi hanno detto che va molto bene la modulazione. Ma Puglia, non dico a testa, ma molto vicino si sei andato. Lo so, c'è il bip, vabbè, ma io lo tengo giusto per far vedere, sto usando il baracchino, è un bip leggero. Gigi Vulca, questo è stesso colore della 48, tutto celeste, ma così bella questa radio, guarda, poi non sento splatter, non sento niente, vaccanaia, uffa, i vati sono regolabili da 0 a 35, Robè. Regolabile da 0 a 35, poi quando mi serve roba in più già c'è l'amplificatore sempre spento, adesso sono a 10 watt ad esempio, 10 watt di proprio di portante, 10 watt modulati. Avanti Gigi Vulca. Positivo, comunque ho trovato quel finale famoso là, ce li ha coso, Roberto ce li ha presi, quel finale che stavo cercando io per quello vecchio. Ce l'ha Roberto e ti dico anche qual è come si chiama il quarzo per fare quel canale là. Il quarzo è, devo cercarlo, è il 27465. Se trovi quello tu gli metti, te lo puoi mettere nel 23, nel 22 e c'è il 45 sopra. Bisogna cercare questo quarzo qua, il 27465, il numero che corrisponde al 45 sopra. Frequenza è, come si era, 27.065, come era? Com'è il 45? È uguale, praticamente la sigla che monta al finale è 27.465, che corrisponde al canale 45. 27.465. Sì, perché c'ho molti baracchini 23 canali, Robè. Quindi ad esempio nel Mage, nel Zodiac, che è molto bello, molto silenzioso, molto selettivo, nel Conso, cioè tutti quelli Mage, nel Royce, capito? Voglio togliere un canale, un quarto, metterci il quarto del canale 45. E così ce li ho tutti, capito? Tutto qua. Adesso faccio girare un po' la 48 col saletta, lasciami lì, che sono tanto che non lo accendo. Riprendi Massimiliano, che ti voglio sentire con quello lì anche. È positivo, non c'è problema. Chi è che ha fischiato? fischiato, avanti, buonasera. Dimmi, Roberto. Allora io ne ho diversi, nel senso guardare le frequenze, tra che sono la ricezione sono tutti e due, però ci sono dei quarti per certi apparati che non c'è scritto perché c'è 465, siccome ci sono degli apparati che hanno il moltiplicato di frequenza, si chiama, quelli anticamente 27465 mettono un quarto di quella frequenza, mezza frequenza, e te lo ritrovano lo stesso perché hanno il moltiplicato di frequenza, hanno un quarto che ti moltiplica la frequenza per due, per dire. E tu li metti il doppio di quella frequenza e te lo fa, senza bisogno di arrivare a 27465. Io ne ho diverse misure, adesso devo guardare se c'ho proprio direttamente quello che stai cercando tu. Però so che esistono anche degli apparati che non è detto che devi avere l'ordine dei canali come lo stai dicendo tu, può essere anche la metà la frequenza del quarto di oscillazione. Sì, a quarti multipli, sì. Ad esempio quelli 23 canali del radio sono tutti a quarti multipli così, non ti dà la frequenza, per esempio il canale 1, 26.965, 27.005, capito? Ti dà a quarti multipli come stai dicendo tu, poi al conteggio praticamente riesci a tirare fuori la frequenza esatta. Però ci sono alcuni quarti diretti che sono due in coppia, li vendono in coppia o li vendevano in coppia perlomeno, che sono praticamente quarti fuori frequenza, che sono quelli dal 40 in poi, che hanno le sigle come le porte al frequenzimetro, capito? Va bene, avanti Massimiliano. Da positivo, se per caso ti capita lunedì di passare da Fusaro, me ne prendi 2 PL, che stamattina sono andato alla Grassi e non ne aveva. Sono alla Grassi. Vabbè, la GBC li prendo io, perché costano meno, sono più buoni. Sono più buoni. Va bene, per cavo quello grosso. Va bene. Se no mi pare per avere anche Antonello, li mettevo. Va bene, dai, in ogni caso va bene, ok. Avanti Gianni, prima che arrivi a produttore, se no non sentiamo più. Ciao Gianni, ti ho rilasciato in tempo, allora ci riascoltiamo, buon lavoro, buon tutto, avanti Gigi. Ciao Gianni, che non ho avuto modo di salutarlo prima. Se coincide più tardi stanotte, già, o domani. Ciao Gianni, buona serata, buon lavoro, dai, ciao, vai, ti lo bene. Ciao Gianni, sentito alle prossime. Canale risposto qua, ma cosa? Giulio Dovaro, lavorando sta? Ah, non lo so, non l'ho mai più visto, mai più sentito, non lo so. Se ancora lavoro, se ha chiuso, non lo so. Non so niente. Ma ci vediamo, quando parli tu, la colonia di zona 48 è cupiene, se ne ha radio un chita. Con questa la ti ascolto ancora più forte. Minchia papà. Mi accompagna un attimo. Perché lo sai cos'è, man mano che scalda magari la modulazione diventa più bella, hai capito? Bella radio. Ti racconto, bella, funziona perfettamente bene. Capito? Non c'è problema. Sì, vabbè, siamo qua. No, io non lo stavo più usando, invece che è comodo, intanto io le... Ho messo il PTT e non esce, vedi? Perché non li usi i microfoni? Con questo saletta e la 48 non lo stavo più usando. Non so come così funziona più con l'eco, figurati, ma è meglio che non funzioni, che rimanga così, intanto non mi interessa. Non mi interessa. Adesso ho fatto attaccare la KB23 col Turner. Riprendi Gigi Vuca. Positivo, e quello forse va ancora meglio, capo. Quello lì va bene, capo. A me piace come c'è in radio quello lì, la KB23, Raffaele. E adesso mercoledì o giovedì dovrebbe arrivare il mio. Mi ha chiamato ieri che è tutto pronto e sta aspettando solo il filtro anti-splatter che l'ha ordinato e non è arrivato. Una volta che piazza quello me lo manda. Positivo, dai, ne è arrivato uno, anzi due. Ne sono arrivati due, tutti dallo stesso, però sono ripartiti indietro, dai, me lo stava dicendo Agostino, quando è partito, perché perché me l'aveva detto quando ero sul continente, quello che ce l'aveva in mano, tutti e due baracchini, e ha detto di Gessino, anzi quello di Siniscola era, ha detto Sino che non era diciamo sicuro di tutto quanto, non lo mandava il baracchino per non tornare indietro. Invece è arrivato ed è tornato indietro tutti e due, addirittura quello di Agostino e questo di Cristo. Come sentite con questo? E a voi la bacia. Sentiamo. La bacia, se lo bacia, caso con la 4 watti. La bacia il microfono. Il microfono va a bacia. La bacia lo chiudo, non esce più. Sopra uno. Ce l'ho così. A zero. Esce, grazie. Anche a zero esce. A zero è. Ma io ti sto ascoltando in cuffia, cazzo, la bomba. Con questa radio, Con baracchino non lo so, ma con questa è una bomba. A zero, adesso l'ho messo a uno, contando più tre. Lasciala a uno che va meglio, là. A uno va benissimo, un bel forte. Gigi. Positivo, no, io già c'ho il volume basso basso per tutti e due. Non c'è problema. Puoi vedere anche come era prima, io ce l'ho fatto il volume, perché sennò tu mi fai ripompare tutto, allora ce l'ho basso e non lo sentivo così, diciamo, perché se c'è il volume basso, dai, c'è il volume abbastanza basso. Questa è la KB23 con il 3 mi dici. Visto se mangia che va cosa va, Ti dico che questo si mi piace più di quello che c'ha, come si chiama adesso, E ti dico è più bello anche dell'altro, del come si chiama, della Fayette che c'avevi prima. Questo c'ha la radio, te la fa, col microfono però, secondo me il microfono te la fa molto più bella. Tra me più tre con la KB23, infatti quando schiacci fa tum tum. Non c'è niente da fare, è stato sempre il top degli anni 80, dice io modulavo con questo baracchino e il Tamer più 2 l'attavo, capito? Il Tamer più 2. È che il Tamer più 2 c'ha le connessioni per il DAC, altrimenti avrei attaccato quello, ma questo è favoloso, il Tamer più 3, questo Tamer più 3, poi questo modello qua spinge che è una meraviglia. Io mi sono ascoltato, non lo dico perché è come darmi una zappa ai piedi, però quando io mi ascolto in cuffia con la KB23 radiolina da 2 lire e un microfono così, poi attacco il tempo e mi viene la voglia di usare sempre questa, ma purtroppo c'è 23 canali, quindi è un casino. Però quando siamo sul canale 10 io lo uso spesso questo. Te la posso dire una cosa? Dimmela. Sento offesa però, Canto, questa qua spinge più del President e del 140 come tipo di radio, Spinge proprio un bel forte. Non so, ma infatti io a volte non lo dico, però è così, la realtà è quella, questo è un microfono super dinamico, ad alte prestazioni, la radio è un baracchino a PLL, quindi quarzato, con la commutazione automatica a relè, sono micidiali. In quegli anni che aveva questa modulazione ero io, a Porto Torres, che avevo carciofo con anima, non ce n'erano altre, perché io già da quando ho iniziato a modulare la prima cosa che ho curato è sempre la radio, ma la sono portata appresso come timbrica e come tutto. Ero nominato io per la radio bella, ma non lo dico perché per farmi più grande degli altri, però è stato sempre così, a me è piaciuto sempre questo tipo di microfono, perché aveva una dinamica micidiale, soprattutto su queste radio, capito? No, ma su quella poi c'è un abbinamento spaventoso. Diciamo che a me, l'unica cosa che non vedo è lo Smith. Pazienza. E cos'è stata una portata? Cos'è? Possiamo andare. Non so chi è. Ho schiacciato il tasto, non me ne sono accorto fra, perché stavo provando se stavo uscendo, non me ne sono accorto, cioè che c'è che stai parlando? Se non ti accorgi che ci sono io che sto parlando, vabbè, allora non sto uscendo, se monti lo rischio mi sei incollendo in tutti i nomi. No, ho ascoltato il canale, poi ho girato, poi mi trovo che forse c'è un altro canale, invece ero sul 10. Claudio, ce ne avevano dato tempo fa una piccolina di quelle lì, la gemella, però piccolina, talmente era piccolo lo smittere, una cosa, però mi pare, che ci aveva tre canali, può essere tre o sei canali, la gemella, però in miniatura piccolino. Sei canali, io avevo il pony, sei canali e il non mi ricordo come si chiamava, comunque sei canali, funzionavano molto bene, soprattutto con questi tipi di microfoni, andavano molto molto bene. Massimiliano, così è me, adesso non gli ho attaccato neanche il coso, il BV131, ma appena due minuti lo ricollego il BV131 a questa KB23, così lo facciamo uscire con i watt che escono le radio grosse, però la radio è di quelle un po' più prepotenti. Bene, mi senti Robert? Robert, ti aiuto te. Così è Massimiliano. Ma già così con 4 watt ti fa ascoltare bene, però qua. Se li accoppi il 131 lì c'è una bomba. Io non ci posso più con questo, io me. Non se ne accorgevano neanche che stavo modulando con questo. Capito, siamo sempre 231 attaccato, ma se ne accorgevano neanche perché, come dite voi, la timbrica sembrava quella del Kingwood. Sì, è proprio così. Ma volevo chiedere a Gigi se queste radio sono tornate indietro o sono di bambolo. No, negativo, no, non era di lui. E c'era anche, questo c'aveva anche quella radio lì, c'aveva anche quello lì. Di baracchino, anche quello lì, però a me non mi piaceva, c'è anche quello lì. Ah, positivo, no, io comunque la mia l'ho già ascoltata lui, io la mia l'ho già sentita, capito? Niente, sto aspettando solo che ha ordinato questi filtri antisbatteri, li ha ordinati da luglio, però la CTE ancora non gliel'ha mandati perché è aperto il primo di settembre e adesso le dovrebbe arrivare questa settimana. Come me la piatta, come lo piatta, metto, ci mette 5 secondi, il tempo di infilarlo, due punti di saldatura, lo chiude e me lo manda. La radio però io l'ho già sentita. Posso usare un attimo? Avanti. Ah vabbè, io devo chiudere, vi saluto, dopo tanto tempo mi ha fatto piacere ascoltarvi, ciao Vicino, ciao Massimiliano, ciao Claudio e poi tutti gli altri amici in ascolto. Ciao ciao, correte da parte mia. Vabbè, buona serata, buona continuazione, fate sentire più spesso, ci sentiamo, avanti qua. Per forse sei sentato io, ciao Robert, anche da parte mia. Bragava, ti sto dicendo lui, io la mia radio l'ho già ascoltata, appena l'ho ascoltata non mi piaceva, gli ho subito mandato un messaggio, me l'ha corretta e adesso sembra perfetta. Capito, appena arriva la questa antisbrattero me la chiude e me la manda. Positivo, non lo so, io ho sentito quella di Mr. Bambolo e non mi è piaciuta nulla. L'ho sentita a Cristian, però Cristian sapevo già che ne aveva mandato, non sapevo, me l'ha detto questo qua, me l'ha detto là, il giorno della festa, che c'aveva il baracchino di Cristian, che lo stava facendo un 48 nuovo a Cristian, e più c'aveva quello che c'hai tu, il tornado di Agostino, capito? Che quel tornado l'aveva fatto Roberto, però lui l'ha mandato da questo perché per farle qualche aggiornamento migliore, però niente, non so cosa sia successo. Non è andato neanche quello in porto, e quello là, vero sia questo, ci ha detto a me che non lo mandava, ce l'aveva già un mese, allora ce l'aveva già da giugno, noi siamo andati prima di luglio, lui ce l'aveva dai primi di giugno, questo baracchino di Cristian. e gliel'ha mandato da poco, già dite la verità, gliel'ha mandato in agosto, gliel'ha mandato in agosto, da giugno che ce l'aveva mandato in agosto. Però sono da Agostino, l'ho provato Agostino, e poi è arrivato, è arrivato e è rimandato indietro, no? Non so che problema già avevano, e così anche quello di qui stiamo adesso. O hanno preso colpi in viaggio, non lo so, però non andava, c'era cosa che non andava in tutti e due. E tutta una serie l'hanno rimandati a lui, gli hanno rimandati indietro, a metterli a posto. Senti, no, guarda, io ti dico la verità, il mio ce l'ha esattamente da metà luglio, io l'ho mandato a luglio, quindi rendi conto, metà luglio, tutto agosto, siamo già a metà settembre e ancora ce l'ha lui, però me l'ha bello che è terminato, me l'ha fatto ascoltare due o tre volte e non mi piaceva, adesso l'ultima volta che me l'ha fatto ascoltare, la cosa era bella là, una bella modulazione, bella forte, doppio effetto eco, bello, ti dico la verità, a me piace, pure giustamente me la chino che piace a me, non agli altri, e niente, però gli manca sempre questo filtro anti-splatter che, ti ripeto, l'ho ordinato da fine luglio, poi la CT ha chiuso e non gliel'hanno mandato, quindi adesso questa settimana doveva chiamare questo Marco che lavora lì alla CTE, se lo faceva mandare, lo saldava, chiudeva tutto e me lo rimandava qua. È positivo, dai, positivo. Già va bene, dai, già va bene. No, quello era, però era Pietro Regattolano, eppure Pietro è molto, diciamo, famoso per queste cose. Molto. Comunque c'è Podarti, mi stava dicendo Agostino. Se è successo qualcosa in viaggio, colpo in viaggio, dice, perché tutti e due, non vanno tutti e due, non lo so, l'hanno sbattuti da qualche colpo, non lo so, non so che dirti, comunque non funzionano tutti e due. Non lo so, adesso appena rientra anche me, la prossima settimana forse ho dato anche il brutto, forse lo vuole cosa, Roberto Turbo, mi ha mandato un messaggio ieri su Facebook perché gli ho chiesto se interessava a qualcuno, forse è interessato direttamente lui a prenderselo. Se non vuole glielo do. Tu non lo conosci a Roberto Tutto. Non lo conosci. Va bene, dai. Io non lo conosco, io lo conosco così, di Facebook e così. Ci siamo sentiti per telefono qualche volta. Giovedì della prossima settimana torniamo a Sassari e ci dobbiamo vedere, così le porto questo baracchino, vediamo un po' se gli interessa. Mi chiama ogni tanto a me, se vuole vendere 48, vuole vendere quello, ma che adesso rientra, quando deve rientrare in questi giorni, infatti per rientrare, ma mi ha chiamato, guarda, anche l'altro giorno mi ha chiamato. E rientra mercoledì, voleva fare il cambio con quello di Albatros, se l'ha già detto, ma assolutamente no, non do un pluto per un 48 assolutamente. Il microfono ti dà il cambio di quel baracchino lì. No, dell'ultimo che c'ha, dell'ultimo che gli ha fatto Massimo, Albatros, ma assolutamente, ragazzi, non vedo più, dico brutto, ma che sono 48, ma manco a buffonelli. L'ultimo io non l'ho visto, ho visto quell'altro là e quell'altro là fa pietà, fa a vedere, può darsi sia ultimo, però io gli ho detto a Massimo, mi fai a fare un baracchino, anche se è bello e coso, riesce bene e cosa, ma puoi fare una cosa vecchia, se non tutto quanto zappolato, tutto... non vuole visto, cavolo. Ma mi sentite con questo? Via. E com'è la modulazione? Ma io ti ascolto sempre bene. Ma cosa c'è? Ecco, cosa c'è qua? Dove? Questo è il microfono, non è 1,3 m. Ma questo è un 1,5 m da tavolo. Io microfoni da tavolo non ne uso. Ce l'ho 1,3 m, ma non lo uso. Questo è un 1,5 m da tavolo. Con 23 canali la buon'anima di Mario Mao, col console primo. Io che fai dai fare un M300 con appena amplificazione? Questo è l'M500 con appena di reverbero. E la radio è un 23 canali, quella che c'aveva Mario Mao, col console primo. quella grande col cassone in legno. Funzionano tutte le mie radio, no, non vengono mai, sono tutti collegati, il problema è che infatti stavo aspettando il finimorte per entrare. Ciao Roberto, sì, scusa che non ti ho salutato, stavo montando l'antenna e non ti ho sentito. Questo è il 500 da tavolo, capito? Questo c'è il 300, insomma, vero. Con il 300, le connessioni sono diverse. Sì, ce l'ho il 300. Ce l'ho, non c'è problema. Io c'ho l'M300, c'ho l'MP2, quello sempre della Tana, quello celeste, la Tana, non è un microfono da Tana. Ma sono tutti di collezione, capito? No? Mi piace più quelli di tavola, ma... Guarda, io posso anche chiudere l'eco, guarda. Allora, così è tutto chiuso e questo è solo il microfono con questo baracchino, ma va bene? A voi è un bel amplificato, un bel, però se ne lasci un leggero reverbero è bella lo stesso. Così allora, come la prima, bene va. Via, però le puoi anche abbassare un po' perché sei un bel forte. E cosa abbascio? Lo microfono, se lo abbascio noi si dà giù. Tanto che io ce li ho tutti a uno i microfoni Massimiliano. Cos'è? Non uso il microfono a manetta, è la mia modulazione che è così, la mia voce mi... E quelle voci, siccome da bambino vendevo patate, allora mi ho preso questa cosa. Ah, ok, là, va bene. Vai Gigi. Ne approfitto, dai, che farò un attimino di bianco, che devo dare un'occhiata a quella macchina di quella figlia di mio figlio, che non sta funzionando bene. Ne approfitto, dai, per il momento vi saluto, dai, poi se ne ho voglia stanotte già decidete se facciamo due chiacchi. Adesso le do una controllata a questa macchina, vedete se è questione di candele o che cosa è, dai. Al limite più tardi, dai, più tardi ce la riascoltiamo. Va bene, ciao Gigi, buona serata, buona continuazione, va, avanti là. Ciao Gigi, tante cosce belle, ce la riascoltiamo stasera se coincide, altrimenti alle prossimine, KK, avanti Massimiliano. Allora va bene così, la lascio così. Sì, lasciala così, è un bel forte, io mi sono messo in cuffia e ti ascolto un bel forte. Adesso non so se... perché ti stai ascoltando con questa radio, però è un bel forte. E tu vedrai. È un avviso, Massimiliano, anche come ricezione, come tutto, capito? Se ti abitui a ricevere con quella radio, quando poi vai a accendere i baracchini, come faccio io, c'è un abisso, è completamente un'altra guba, capito? Non c'è niente da fare, quindi hanno una ricezione bella, stabile, forte, poi con tutti i filtri che hanno con la radio, è così, non c'è problema. Va bene, no, io ti ascolto molto bene, questa c'è una bella colonnina davanti, sia questa che Zodiac, a differenza della 48, della KB23, eccetera, questi in base c'hanno una ricezione favolosa, soprattutto questi che hanno la colonnina davanti, capito? Quindi sei perfetto. E io anche la positivo, dai. E va bene. A spiga basso appena. Così come mi ascolti, là? Così l'ho messa esattamente a 3 watt. Ehi, sentiamo 9 con picchia 9,5, sì. Ah, lasciala stare a 20 watt, chissà, no, non ha problemi. La gente con Caterpillar, chissà, dai. È un bel forte, robusta, capito? La puoi mettere a 20 watt, no, non c'è problema di metterla a 3 watt, non ti abituare, quelle sono radio che devono usare la potenza sua, mi capito? Non devono usare, non solo mettere i baracchini, no, a 2 watt. Buona, puoi anche sollevarla di più. Aspetta. Sto bene tornando adesso. 9,25. E non si muovi, E non si muove, non è che ha picchi negativi, niente, va bene, alla grande. Così sono, diciamo, 30, va, intorno ai 60 volumi. Ma va bene, se 9,25 con picchi ancora più alti. Va bene, hai visto? Dovevi rifare, invece è arrivato Gesù Bambino. Giornalina mi sta piacendo, mi capisci a me? Deve e ti sento già soddisfatto, perché quando la radio poi esce bene, c'è una bella modulazione, una bella timbrica, capito? Quello è un buon abbinamento, non l'ho scoperto io, l'ha scoperto Luca con il 140, e io le metto le MB più 5, ha detto ma vai, c'è una gargata, capito? Quando lo sento mi sono spaventato. È che io ci avevo tutti gli MC60, MC80, 85, se no me ne avevo comprati a 5 di MB più 5, li avrei messi tutti sui cable, capito? Riescono veramente bene. Aspetta, aspetta, che adesso c'è un po' di perdita anche qua. La gente che andò già a Moldavo, quindi in settimana, là, quando non c'è rientro, fammi sapere, quando non c'è rientro, mi prendi quei due PL, scendi qua con Sandatore, facciamo il capo a misura, non me ne frega un cazzo di sollevare l'antenna, la mollo così, sennò mi aggiungo ad ammazzare. Le cambio il capo e la cosa dovrebbe essere anche diversa, Di diversa giro, ha giovato 90 km andare e 90 km a tornare da Pinuccetto, no? Ce l'ho messo quel capo, quello lì è lo stesso capo che ho io, quello manca 510, capito? Bassa perdita, è un buon capo coassiale qua, veramente, è un buon capo coassiale, tu immaginati che a Pinuccio io liscio non lo sentivo in mezzo al QRM, adesso liscio mi arriva a 5, quando attacca mi arriva a 8, fate il conto, mi arriva molto molto bene, e poi anche lui dice c'è una ricezione allucinante adesso. Prima riceveva molto molto poco, e quello è un doppia calza, il centrale è rigido, ce l'hai visto, ed è un buon cavo, veramente un buon cavo. Ma mi stavo dicendo ieri Pomporio che, in poche parole, c'aveva un casino di QRM con l'RG213, ha detto che c'aveva un casino di QRM, ha cambiato il cavo, QRM è sparito. Sparito il QRM perché c'è la doppia schermatura al cavo, sparisce il QRM, acquisti più pulizia a ricezione, più tutto, capito? Te ne accorgerai cosa vuol dire avere il cavo grosso. Il cavo grosso è micidiale per le radio, poi come superi RG58 va bene per poche cose, capito? Per chi non usa potenza, poi vedrai come quando attacchi l'amplificatore con la 48. Come senti la differenza di imbratte, di ricezione e di radio? Io non so cos'è, Clark, io stavo decidendo giustamente... Aspetta un attimo, mi sta chiamando mia moglie, un secondo. Ehi, va bene, tanto cambio radio, via. Oh, ci sei, Clark? Ciao, qua, ho rimesso l'HB23. Ehi, ehi. No, stavo dicendo, Clark, lo sai cos'è? Che... cioè sollevando l'antenna sicuramente guadagno qualcosa e un pochino più in alto giustamente se il segnale lo guadagno, anche trasmissione sicuramente qualcosina esco meglio, però per la posizione che ho diciamo che prendo bene un po' da tutte le parti, perché alla fine ricevo un po' da tutte le parti. Per il punto che ho arrivo già lì a Macomer, Bonorba, tutte quelle zone lì, Bonottana, ci arrivo abbastanza bene. Una volta che cambio il cavo non devo stare lì a scendere l'antenna, sollevare il palo, ci vogliono persone, è un lavoraccio, ti devo dire la verità, Cla, è un lavoraccio sollevarmi l'antenna, quello magari il prossimo anno vedremo un po', però lì appoggio la scala lì al palo, cambiamo il cavo, lo facciamo a misura, è già qualcosa guadagno. Mi faccio gli ispezioni grossi, perché gli ispezioni grossi ci vogliono, almeno due, faccio gli ispezioni grossi e penso per quest'anno sono a posto. Te ne accorgerai la differenza, te lo sto dicendo. Te ne accorgerai la differenza, Massimiliano, va molto molto meglio, RG58 ti ripeto, è per giocare, capito? Per un baracchino così, se hai 6-7 metri di cavo va bene, ma quando già superi 10 metri, 15 metri non va più bene, è un cavo, cavo fine, non dava, capito? Ci vuole cavo grosso e buono come questo. Questo è un ottimo cavo veramente. Io ho cambiato la giorno e la notte sia come ricezione, come trasmissione, tutto, capito? Io devo essere sincero, la verità, a per il momentaneo ancora c'ho il 213, ma fanno la regia 58, e ti devo dire che con la Mantova 1 mi ha dato moltissima soddisfazione. Non ho avuto magari il 100%, ho avuto il 70%, però devo dire che mi ha dato molte molte soddisfazioni. Ce l'ho già 6 o 7 anni, non c'ho una virgola di stazionarie, e quindi devo dire che va bene, però voglio migliorare. Giustamente adesso ho preso questo cavo grosso e giustamente sicuramente la trasmissione, la ricezione cambierà dal giorno alla notte. Stai scherzando? Te ne accorgerai? Sì, ma il 70% va anche bene, capito? Ma quando tu a un 70 gli aggiungi un 30, un 40% in più, perché vai a migliorare in ricezione, in trasmissione, ti accorgi subito la differenza. Poi ti accorgi adesso che stai usando già una radio professionale, ti accorgi subito, immediatamente. Se tu adesso con la DG58 ti senti i segnali, come ho fatto io prima di cambiarlo, no? E poi quando lo cambi, te lo controlli, ti accorgi già che ti sono saliti tutti di 3, 4, anche 5 dB, capito? Qualcuno addirittura ti incolla anche lo Smith, perché la ricezione è superiore. Ecco, io questo fatto qua l'ho già fatto. Sul foglio c'è nome e cognome, segnale. Segnale attaccato, segnale staccato, segnale con 4 watt, sempre dalla stessa persona. Cioè, ho tutti i segnali, tutti scritti, non memorizzati a mente, ho tutti scritti a mano. Provate con 4 watt, provate con 20 watt, provate con 50, con 200, con 400, con 500. La stessa persona ogni volta che prova ci mette il segnale a fianco. Io questa cosa l'ho fatto non da adesso, già da parecchio. Quindi se vai a controllare a me prima di cambiare il cavo, ti accorgi qual è la differenza. Ma io me ne sono accorto dall'amplificatore stesso. Dall'amplificatore stesso. L'amplificatore con i baracchini, se ti ricordi, non salivano più di 4 e andavano in negativo. Adesso superano i 4 di brutto, stanno anche sul 5 con 4 watt, ma quando parlo va in avanti, non va più indietro. Quindi era proprio un problema di cavo, un problema di cavo. Io avevo già il cavo grosso, però era completamente ossidato all'interno, la calza era tutta nera, era una calza unica ed era tutta nera, quindi massa non ce n'era più. Il cavo stava lavorando al 50% con la massa e al 50% col puntale. Adesso lavora bene al 100% perché la calza è doppia, poi rivestita di alluminio. Immaginate tu che cosa le fa. Va molto bene, ma ti accorgerai, guarda, io non ti dico niente, ti accorgerai tu stesso del cambiamento quando mettiamo il cavo. Ehi Acra, ma poi tu te ne accorgi ancora di più, perché cosa succede? Che tu c'hai moltissima calata, capito? Quindi già mettendo un cavo fino, già c'hai parecchia perdita. Mi sembra che tu c'hai cavi da calate da 40 metri, così è? No, prima era 30-35 metri, adesso se ce le ho tutte da 30, perché le antenne sono su questo lato. 30 metri, no, avevo già il cavo grosso, solo nei dipoli c'avevo il cavo fine, adesso anche nell'antenna HF, nelle antenne HF, c'ho tutto cavo grosso, capito? C'ho tutto cavo grosso, ma anche gli spezzoni, tutto all'interno, ho fatto un mega lavoro, PL tutti nuovi, erano tutti uguali. Avevo un casino che non ti dico, mi sono stufato, ho fatto tutto nuovo, ho speso un pacco di soldi, però adesso è tutto nuovo e così via. E tu ti accorgerai cosa cambia da quel cavo, quel 213, che già c'è un bel po' di anni, ed è un cavo insomma già passato, 213, no? E che stanno facendo cavi molto, molto più robusti, come questo 510, la K1000 e così via, che vanno molto molto bene e non hanno problemi. Ti accorgerai, Massimiliano, tu segnati il mio segnale, guarda, con 4 watt, con la KB23 ci metti 4 watt KB23 Claudio. Poi quando cambiamo il cavo io te ne faccio il passaggio con la stessa radio, senza lineare, senza niente, 4 watt, sono sicuro che almeno 2-3 punti S in più salgo. Sì, sì, positivo, positivo. Vabbè, adesso me lo segno, capito? Invece un'altra cosa, Fabrizio aveva preso qui i commutatori di antenna, di cui quello che c'hai tu, ma non se ne trovano altri o bisogna ordinarli? No, no, no, quelli bisogna ordinarli, infatti ho detto che ne serve un altro, perché voglio accoppiarglielo per commutare sui baracchini, perché io ce l'ho quello della ZG, ma non è piazza, è una gangata, quello anche quello, vedi, quello... Ci voglio un commutatore buono, e quello qualità prezzo è buonissimo come commutatore, c'è un kilowatt dentro, è fatto molto bene perché l'ho aperto, è bellino anche esteticamente, l'hai visto, l'ho attaccato al muro, tanto non c'è problema, in ucraino che è nuda, nonostante questa è la battaglia, è fatta esclusivamente per me. E ci accoppio anche l'altro vicino, sempre con due tassellini, e glielo metto vicino, così ho 3 più 3, capito, 6 antenne. In modo che commuto tutti i baracchini, perlomeno i 3 baracchini base che uso, capito? L'HB23, l'AN48 e il console. Oppure commuto, poi se devo cambiare, insomma, capito? Adesso c'è un cavo unico e praticamente inverto solo il cavo e basta, però me ne serve uno anche a me. Lo dobbiamo dire a Fabrizio, se facciamo l'ordine, uno a me, uno a te, un altro credo che ne serva a lui. Ne ordiniamo 5 per dire e ce ne dividiamo, capito? Costano 15 euro, 12 euro costa. Sì, ecco, per quello te l'ho detto, capito? Se senti a Fabrizio, diglielo se a lui che ne serve qualcuno, o se no li ordiniamo 3, uno a testa e ci dividiamo le spese di spedizione, anche che siano 12-15 euro l'uno. Fai che ci venga 17 con le spese di spedizione, diviso a 3 e ti biglietto e via. Perché io non so se tu conosci, io ho il Lodestar, lo conosci come commutatore? Sì, sì, è buono, però questo è ancora più buono, ma ci vediamo. Vedi un po', quindi questo qui potrebbe fare quel lavoro che tu mi hai dato il cavo, ti ricordi quel lavoro che ho fatto? Questo qui potrebbe fare quel lavoro là, e l'altro che compro lo metto qua, che è anche bellino esteticamente da tassellare al muro, capito? Lo metti in un angolino e, come ho visto che ce l'hai tu, è nascosto, anche se lo guardi non è che sia questa grande schifo, attenzione, è una cosa anche carina da vedere. Ah, stai scherzando, va benissimo, a voglia che va bene Massimiliano, non c'è nessun problema, è che a me si vedono i cavi grossi di commutazione, ma questa è una sola radio e quindi si devono vedere i cavi, ma non mi interessa, ma me ne ho fatti nulla, però sto dicendo va bene, va veramente bene, sto dicendo io ho quello della ZG, l'ho attaccato e l'ho conservato e non mi attacco, non mi interessa, se vuoi te lo trovo, ma è una cagata, capito? A me mi creava un sacco di problemi, soprattutto quando attaccavo il lineare mi faceva perché non commutava, alla fine era giocato, quando ho attaccato questo non ho mai avuto più problemi con l'amplificatore, mai. E cosa voleva fare là? Io questo commutatore che ho è a 3 uscite, di cui ce li ho tutti esattamente sotto il rosmetro, perché io non ho attaccato il commutatore prima di arrivare al rosmetro, ma l'ho attaccato dopo il rosmetro, anche se giustamente le stazionarie non le segna giuste, però già ti spiego, già attaccato con quello che sai mi mette 1,3 di stazionarie, quindi diciamo che se io dovessi togliere il commutatore non c'ho stazionarie. Esatto, esatto, ma non c'è neanche dispersione, non c'è niente, capito? Poi col cavo grosso dispersione, sulla commutazione ce n'è poca, mentre col cavo fine se c'è il commutatore perdi un sacco di segnale, va tutto a disperdere, spezzoni, spezzoncini, no, io strumenti, guarda, la verità, non ne uso, non mi interessa, ce li ho l'MN2000, ce l'MFG, ce l'hai visto. sapete stazionari, proprio uno al rapporto uno, ma neanche si muove, addirittura anche con l'amplificatore attaccato, quindi non mi serve di sperdere il segnale all'interno per tenere lo smetto attaccato per far vedere, non me l'ha sottenuto, non me ne frega niente, ogni tanto le controllo con lo strumento automatico e va bene, non c'è problema. È positivo, va. Beh, se tu devi passare per qualsiasi cosa da signor Giovanna di Antonello, o la GBC, prendimi le due PL in bacchilite, così quando capita in settimana o sabato, domenica, sabato dopo pranzo, sabato mattina, vedi un po' tu quando sei disponibile, li porti qua e ci facciamo la calata dell'antenna, tanto vivo mezz'ora a farla, ci facciamo la calata dell'antenna, saldiamo, porta giustamente il saldatore perché il mio non è che salda benissimo, ci facciamo i due PL, capito? E niente, quanto costano quei PL in macchinita? 3 euro l'uno? Ma bisogna 3 euro l'uno, fine in giro, già non me la mangio io, ma è regalato a me Tonino, ho comprato il capo, me l'ha fatto avere lui, capito? Me l'ha ordinato lui, me l'ha fatto avere lui, quindi gli ho fatto un sacco di spesa questa mattina, ma li ha regalati a me le due PL di quelle macchinette, già ci passo io, dico me ne servono altre due e non me ne vado in bagatore, non ti preoccupa, già me la mangio io. Adesso lunedì te li prendo e poi vediamo in settimana. Tanto tu a che ora esci dal lavoro? Io esco alle 4:30, di cui alle 5:20 sono a casa. Capito? Quando tu non rientro, tranquillamente puoi venire qua, ci facciamo la calata dell'antenna, giustamente ti devo tenere la scala o mi tiene la scala per attaccare il PL all'antenna. Solo lì è il problema e basta. Poi il cavo entra in fretta, c'è già il buco, è già tutto a posto. Vabbè, non abbiamo quei problemi, non abbiamo quei problemi, si lega e si fa. Va bene, va bene. E io tranne il mercoledì e il venerdì, poi rientro, ne ho capito. Quindi quando io scendo alle 5 lì, tu sei già arrivato. Prima che cambi l'orario bisogna farlo perché altrimenti alle 5 è buio. La voglia, claro, tanto tu sei già rotto di abito, quindi quando sei disponibile me lo dici, io addirittura posso, tanto arrivo sempre prima di te, ma quando arrivi tu ti faccio anche trovare il cavo già infilato e tutto. Saldati PL, bisogna saldare PL e via. E quello bisogna farlo sul posto. Va bene, guarda, salvo complicazioni, ma non credo che ce ne siano. Questa settimana che viene lo facciamo. Noi ce lo togliamo a mezzo piede come ha fatto a Pinuccio. Sono andato mercoledì, non ci avevo rientro, pensavo di fare rientro, invece no, non ce ne hanno fatto fare per questioni sempre di denaro. E allora chiamato Antonello e siamo andati a Bondugio, io ho sistemato tutto il cavo, l'antenna, ho messo a posto tutta la stazione di Pinuccetto ed è veramente minchia che si è cambiato oggi giorno alla notte, non lo facciamo settimana, dai. Questa settimana che viene lo facciamo. E claro, via, lo facciamo così prima che arrivi il brutto tempo sono in ordine per tutto l'inverno, capito? Poi al limite le lasciamo sul tetto senza farle nessuna piega allungato, ne lasciamo 3-4 metri, non si sa mai, il prossimo anno mi sale il pallino di sollevarmi l'antenna, ne lasciamo un pochino in più, così siamo già a posto se per caso dobbiamo sollevarmi l'antenna, capito? L'unica cosa che ti chiedo, come ti va la radio buttendo così? È così originale? Che deve scaldare così tanto? Sì, mettici l'orecchio sopra a vedere se sta funzionando la ventolina. Il dissipatore deve scaldare, tutte le HF scaldano il dissipatore, non c'è problema, è fatto apposta, però come vedi c'è il dissipatore esterno e più c'è la ventolina. Ma io ho appoggiato l'orecchio e la verità, ventolina non ne sento, però già è calda, la verità. Non è che sia bollentissima, però già è abbastanza calda. No, deve scaldare, l'ho tenuta anch'io qua, deve scaldare, poi c'è un avevo quel tipo di radio qui. Scaldano, scaldano. Ma se non mi ricordo se c'è una vetrina quello che ha dissipatore esterno, mi pare che vetrina ne abbia, lo sai. E c'ha il dissipatore esterno, sì, mi pare proprio così. Invece 140 che non ha dissipatore, c'è la vetrina interna. Invece quello c'ha dissipatore. No, è fatto apposta, che l'ha progettata già sapeva quello che stava facendo, ho capito, Massimiliano. Non ti preoccupare, riusci. Non avere paura, abituati, è come il coso, no? Come il VV 131, tutti si asciugano, tanto non c'è ventolina quella, ma se il coperchio è fatto a dissipatore, che è tutto fratto, se è stato fratto, l'ingegnere che l'ha progettato, l'ingegnere che l'ha progettato, l'ha progettato per dissipare il calore, non c'è bisogno di ventolina, quindi non dico se si asciugano, ma è potente, la salute. Solo una domanda, perché io sai che non sono abituato a questa radio, quindi sai, meglio chiedere più informazioni possibili, no? Cioè, perché se no io una ventolina attaccare con l'alimentatore a 12 sopra, gliela posso anche piazzare, anche se è una cosa brutta da vedere, però penso che queste radio più scaldano più lavorano, credo che siano così, eh? Detto bene, hai detto bene, quella è fatta apposta per dissipare sul dissipatore esterno, il coperchio quello lì è fatto a dissipatore, quindi è nata così e così deve rimanere. Come ti stavo dicendo, il VV131, se è stato fatto il coperchio tutto forato, è proprio per il calore, non c'è bisogno di mettere le vento, le ventoline, non serve a nulla, mi capito, non serve assolutamente a niente. Vai tranquillo, quella è così. E non c'è nessun problema, tanto è alla grande. Guarda, davvero, guarda, l'unica cosa di questa radio, perché anche se è un po' vecchiotta, diciamo che gallina vecchia fa buon brodo, no? Come si dice. L'unica cosa che mi dispiace un pochino è che si vede poco lo smitter, infatti io vedo bene, ma no, che bisogna essere più ciechi, fa pochissima luce, è questa batteria che farò di tutto per metterla. Una volta che la prenderò in mano Fabrizio, sicuramente le farò fare anche la luce dello smitter, perché non si vede, claro, devo essere sincero, tu di buoni bicicletti non vedi quasi nulla, fa una luce proprio leggera e sembra buio, capito, sembra buia. Guarda, se riesco a sistemarle la luce dello smitter e la batteria delle memorie, ma tranquillo che tu mi accorti solo ed esclusivamente questa radio, ma da chi li parcheggi un po'? Guarda che tu per quanto riguarda la luce dello smitter, lascia perdere la batteria che siamo già in movimento, la luce dello smitter te la fai tu, non c'è nessun problema, hai capito? Ti ho detto, togli il coperchio, la vedi la lampadina, prendi i filettini e le metti un led e le rimetti di nuovo davanti allo smitter. Io non l'ho fatto perché mi veniva male a me da sotto, però io l'ho lasciata su fuori la lampadina e la vedi se tu togli il coperchio. Cazzo, mi hai fatto la 48, mi stavo temendo solo che l'ho aperto e non riesci a farti quello lì. Quella è la lampadina, è proprio al fianco dello smitter, capito? È al fianco dello smitter. Lo apri e così impari già a metterci le mani dentro e non temerla con la radio. Lo apri, togli il coperchio, guardi dove è la lampadina, se fuori sede la metti dentro la sede, se è da cambiare le metti un led più luminoso e basta. Quella è una cosa che ti puoi fare tu. Io dentro con la verità non la giù mai ammessa, non ho neanche guardato la verità come ha fatto adesso, perché ho visto che va bene, che funziona bene e basta. E niente, è la batteria delle cose, delle memorie, che è quella lì, mi sbatterò la testa intera, ma quella lì gliela voglio cambiare, claro. È un giramento di balle, devo essere sincero, un giramento di balle stare con questo UFO girando tanto il canale per cercare, due ore, se ti mandano da un canale all'altro, devi stare due ore cercando il canale, invece vai direttamente quando c'hai 8 canali memorizzati, più o meno sai i canali che ti devi memorizzare, vai lì e boh, poi se ti devi spostare è un altro discorso, però già i canali più o meno che usiamo sono quelli e li voglio memorizzati, capito? Nel senso che devo andare a 45, non posso altro che chi ci anda, invece così la gente a mezz'ora della girende, capito? Ma quello l'avevo già memorizzata, capito? È facilissimo perché quando tu l'accendi lì rimane nel WFO memorie e quindi tu non fai altro che dal manocolone ti sposti, una volta che è in WFO memorie tu ti sposti, sei nella memoria 1, vai al 2, vai al 3, come che stai girando il WFO con la manopola grande, no? Quella quando è nel WFO memorie giri sempre quella. Quando devi uscire per andare a spostarti dal WFO memorie e te ne vuoi andare in un altro canale, non fai altro dove c'è scritto WFOM barra M trattino M, pigi quello, esci dal WFO memorie e giri manopolone e fai dove vuoi, capito? È facilissimo, bella per quella. Infatti ho memorizzato il 5, il 10, il 14 e poi tutti i canali alti dal 45 in poi, capito? Ed era perfetta, infatti stavo sempre provando, muovendomi, era perfetta, solo cazzo quando la spegni non c'è la batteria tampone e se ne va a 7 mega. Yeah, è per quello mi dà fastidio, capito? Per quello dammi una mano a, con Fabrizio a mettere questa batteria, giustamente pagando e non a gratis. E niente, cioè giusto per cambiarla, io non so come funziona, se posso dare la radio, cioè gli devo dare la radio, al limite lui sa già che batteria ci vuole, va, la prende, un venerdì gliela lascio, la domenica me la restituisce o quando la cambia non c'è problema, così è tutto a posto, vengo da te, me la memorizzi, mi fai vedere giustamente come si memorizzano i canali e poi è tutto a posto, userò questa sicuramente. Sì, sì, ma infatti è così, è così, è così, non ti preoccupare che adesso la facciamo, bisogna toglierla e cercarla, vedere un po' se la trova Fabrizio, se la trovo io, bisogna toglierla però, capito, bisogna toglierla e cercarla, quindi bisogna sacrificare qualche giorno di nuovo la radio, toglierla, anzi senza neanche sacrificare la radio, non c'è problema, si stacca e tanto è come che non ci sia, si toglie, si richiude la radio e la usi normalmente come la stai usando, poi quando ci abbiamo la batteria si rimpiazza direttamente, capito? E qua, no, ho buttato una vita senza che il radio, posso stare senza il radio, no? Che non ne ho radio, ma già uso baracchini e cose così, hai capito? Però sono contento, guarda, Sandro mi ha fatto veramente un bel regalo, sono contento, mi sta piacendo, devo essere sincero. Ma un buffone di sì, quella è un caterpillar, quella è una signora al radio, ieri ci ho sempre fatto delle ultime cose, e il 757 sia il normale che il GX2 in 27 lavorano bene perché sono a tre conversioni e quindi vanno bene, capito? Sono analogiche, sono a livello del 140, del 440, del quel radio lì, vanno molto bene, a differenza della Icom che ha sempre fatto queste radio chiuse per la 27, questa modulazione tutta che non mi piace assolutamente, invece quella spinge molto molto bene, spinge molto bene, spinge bene anche con quella più 5, ma mettendoci in movimento e trovando un MD1B8 anziché l'MD100 che è l'ultimo nato l'hai reso, ma trovando un MD1B8 tipo proprio è uguale precisamente con l'MC60 si dovrebbe trovare a 80, 90 euro, 100 euro, una cosa del genere. Ce n'è anche uno su internet da poco, 85 euro ne volevano, e se no un MC80 o anche un 60 con l'attacco di Aeso dovrebbe funzionare bene, bisogna provarlo, ma comunque ti dico che per il microfono che stai usando, un microfono a 50 euro, stai andando veramente molto molto bene. Positivo, guarda, io ascolto, ho fatto una prova all'ora di pranzo, così mi ho acceso un malacchino, mi stavo ascoltando e devo dire che già spinge abbastanza bene, dai, per essere una coppiata proprio non ideale, diciamo che va bene. E dicevo che va molto bene. Se ti ricordi, se io non ti dicevo stavo usando quella, tu non te ne eri accorto. Perché la mia timbrica è quella lì, quindi tu immaginati la mia timbrica e tu stai uscendo uguale. Molto bene, fortissima del radio, bella, chiara, io guarda, ho provato tutti i baracchini, tutti tranne il DAC, ma ho provato i tre base, anche il Royce, il baracchino che sto usando adesso, che è un baracchinetto con una colonnina da proprio da 4 ohm di 10. Ti ascolto una fucilata proprio, ma poi è bella la modulazione, bella chiara, capito? No, non ha niente da dirmi. Ehi, è positivo, però mi accorgo anche di un'altra cosa. Io sono sempre profano di questa radio e non so se mi sbaglio. Appena accendi, non è che vada così tanto bene, nel senso che sì, mi faccio ascoltare, è chiara, ecco. Però ho notato un'altra cosa, più scalda e più lavora bene, cioè più scalda e più ti fa la modulazione più bella. Adesso non so se è il problema della radio così o se no, di tutte queste radio così, più scalda ma più lavorano bene. No, è così, ecco perché ti ho detto, perché la spegni, capito? Se sei a casa lasciala accesa, non c'è bisogno di stare accesa e spegni, ti abbassi il volume e lasci stare accesa, capito? Ti abbassi il volume e lasci stare accesa, non c'è nessun problema, perché ti dico questo, io faccio la stessa cosa con 140, adesso sto modulando con questa, mica l'ho spento 140, l'ho messo fuori banda in modo che non vedo fastidio di rientro di REC ed è accesa. Capito, è accesa. Perché ti dico questo? Perché questa radio così a HF, prima di andare subito in trasmissione devi accendere, lasciare una decina di minuti, 15 minuti accesa e poi vai a parlarci, capito? In modo che sia bello, bello stabile tutto il circuito, condensatori, tutto l'accoppiamento che c'ha dei microprocessori, eccetera. Ma non sai perché ti dico questo, Cla? Allora, perché io la radio non la tocco, appena l'accendo non la tocco. Se vado a parlare, lo smitter mi segna una cosa. Dopo che la radio è calda, rimane stabile dove lo metto, capito? Solo quello lì, solo da quello mi accorgo. Che per esempio, poco fa stavo andando con 20 watt di portante bianca e 50 modulati, adesso sono intorno ai 22 watt e va oltre 50 modulati, adesso è bella calda, Esatto, così fa anche la mia, non pensare che sia diversa, appena l'accendo i watt sono di meno, poi come inizia a scaldare si stabilizza e rimane stabile sui watt che gli avevo già dato, capito? Solo così. Se tu ti abitui ad accenderla, lasciarla, anche se stai facendo qualcosa prima di entrare su quelle, se tu l'accendi lasci stare e poi ci vai in trasmissione, ti accorgi che la cosa è perfetta. Tu quando la metti a 20 watt l'accendi e anziché 20 te ne può dare 15. Se tu la lasci 10 minuti, 15 minuti accesa, i watt che li hai regolato, lei te li dà immediatamente e con quelli puoi trasmettere. Non devi stare a bassa, tira, molla, capito? Sì, sì, infatti è così, Cla. Mi sto abituando in bagno, io così ho quasi abituato. I malacchini li ho un po' barcheggiati, non so se te ne sei reso conto, comunque. Infatti, adesso siccome io questo te l'ho già fatto sentire, l'ho usato, adesso me ne passo con 140, ma ho già rotto le balle, aspetta che cambio. Ehi, qua siamo. Allora. Buonasera. Io sono sempre vivo, lo sai. Sei tu che sei stato mezzo morto. Perché tu me lo c'hai? Le dita marce c'hai a chiamare. Oh, me lo c'hai? Il formaggio con i vermi nelle dita. E cosa ti racconto? Lo appoggiavo al muro perché sei staccato a letto, capito? Capito, cosa hai detto? Che l'appoggio sempre nel muro perché sei staccato a letto. Siamo siti per telefoni a un uguale, ma è un attimo uso. Non lo so, adesso vediamo là. mattina non so, mi dovrebbe chiamare il meccanico che mi deve cambiare la valvola GR a casa sua, ma penso che sia roba di un'oretta, poi uscirò come sempre dal giornale, caffettino, un girettino così normale, senza impegni, senza niente, e niente di particolare, dai. Poi, claro, ricordati lunedì, martedì, quando sarà l'occasione, fammi questo favore, se io non salgo a salire, prendimi quei due PL, organizzati tu che sei lì vicino, e così quando sei libero una serata ti fa vedere qua e lo facciamo, ok? Dai, buon sabato, anche mia moglie, un virus, spero, claro. Tutta la settimana, mal di stomaco, mal di pancia, tutta la settimana, da lunedì, quindi sono sicuro che è un virus. Ma infatti, io ho detto, se non ti volesse passare tra oggi e domani, non è di vai e ti fai una visita, poi insomma, piatto non può mangiare niente, che subito in bagno, avverrai. Quindi, ci rimaniamo a casa. Va bene, ciao di nuovo, saluti a casa e un bacio a Gaia. Ci sentiamo più tardi, se qui ci riesce, no domani. Ciao Salvatore, mi allontano un attimo dalla radio, se no mi viene la malinconia, no? Ciao. Ciao. Ciao Claudio, dai, buona serata e un saluto al Guardia Familiare, dai, ci sentiamo. Cos'è Salvatore, ti ho sentito? Quello piccolino, quello BV131.